X24, i gialli della storia. La New York del dopoguerra è una città a misura di automobile. Mentre in Italia circolano 400.000 vetture, quante stanno oggi nella sola provincia di Bologna, dall'altra parte dell'oceano 3 famiglie su 5 hanno già la macchina. 40 milioni di quattro ruote, monumentali e stravaganti, che fanno ormai parte del paesaggio metropolitano dell'America. Ma al Museo d'Arte Moderna di Manhattan, il celebre MoMA, nel 1952 qualcuno ancora si commuove guardando una carrozzeria e decide di metterla in bacheca. Esattamente 40 anni dopo, le rivoluzionarie Signorine di Avignone, dipinte da Picasso, una Gran Turismo rossa, disegnata da un torinese, fa invecchiare di colpo milioni di automobili. La Cisitalia Pininfarina del 1947 parla al visitatore con il linguaggio universale dei capolavori. L'unico sforzo chiesto a chi osserva è trovare nella memoria l'aspetto delle automobili della stessa epoca. Nessuna, nemmeno lontanamente, le si avvicina. La sintesi stilistica della Cisitalia, la novità e l'armonia di forma raggiunte senza alcuna concessione all'ornamento o al superfluo ne fanno la pietra di paragone dell'auto moderna, una vera scultura in movimento. Per questo, i conservatori del Museo di New York, dopo averla ospitata in una mostra insieme ad altre 8 vetture speciali, hanno deciso di tenerla per sempre. Quindi dal 1947 al Museo d'Arte Moderna di New York, oltre ai capolavori cubisti, le tele di Mondrian, si può osservare anche un modello della Cisitalia firmato da Pininfarina. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la storia dei grandi carrozzieri italiani, personaggi che con la loro ricerca, il loro stile e la loro eleganza hanno contribuito a fare dell'automobile un simbolo indiscusso di modernità e che hanno imposto il nome dell'Italia nel panorama del design mondiale. Questa storia comincia nelle botteghe artigiani piemontesi all'inizio del secolo scorso. Gambertone veniva da famiglia poverissima, agricoltori o meglio contadini di Mondovì, e un bel giorno, quasi disperati, decidono di emigrare, almeno lui decide di emigrare a Torino in cerca di fortuna. Riesce a imparare un mestiere non facile, appunto quello di carradore, che era il mestiere di costruire o ricostruire carrozze o carri, tutti i veicoli a trazione animale. Mentre Giuseppe Bertone ribatte col suo martello gli intarsi di carri e calessi, a Borgo San Paolo, dall'altra parte di Torino, sta succedendo qualcosa. L'officina dei fratelli Farina è già alle prese con le prime carrozzerie. Oltre a riparare, produce, e la Fiat apprezza la proposta di una versione torpedo della Tipo Zero. Il disegno lo ha fatto il più giovane dei Farina, Battista, detto Pinin, che in piemontese vuol dire il più piccolo. Era difficile a quell'epoca occuparsi di automobili e non subire il fascino della velocità. E quindi anche Pinin, che era molto giovane, si compra un'automobile, se la fa preparare da Vittorio Iano, che era un grande progettista dell'epoca, e partecipa a qualche competizione, con un certo successo, perché vince anche la sua categoria alla Sassi Superga o alla Osta Gran San Bernardo. Anche se è molto tentato, sa resistere alla sirena della velocità e dopo queste esperienze che fa ancora giovane, lascia perdere e si dedica ad altro. Ma l'entrata in guerra dell'Italia nel primo conflitto mondiale blocca la fabbricazione di autovetture e sposta la produzione industriale verso il materiale bellico. È una crisi che però permetterà anche nuove ricerche. La prima guerra mondiale capovolge i progetti dell'industria e spegne i sogni di consumo. Anche l'automobile si ferma, mentre le energie produttive del paese sono tuffate nelle commesse militari. Carrozzieri che sono un indotto dell'automobile, già agli inizi, perché vanno a fare i sarti dell'automobile, costruiscono tailor made, su misura, le carrozzerie dell'automobile, ovviamente non hanno più il loro pubblico e quindi devono anche loro convertirsi per poter sopravvivere in questo momento di crisi. Però ci sono anche dei vantaggi, come in tutti i momenti di crisi nasce e viene favorita l'innovazione e il confronto dei carrozzieri con la grande industria, con la produzione di massa, fa arrivare anche su di loro i benefici di questo cambiamento di registro nel mondo industriale. Per Pininfarina è l'occasione per mettere le mani direttamente sull'aeroplano. Pinin era stato attratto fino da giovane dall'aereo come mezzo ancora più innovativo, ancora più moderno dell'automobile. Durante il periodo bellico l'azienda dei Farina produce un certo numero di aeroplani e quindi Pinin può vedere come vengono costruiti, quali sono le tecnologie e quali sono le problematiche dell'aerodinamica. La fine della Prima Guerra Mondiale lascerà l'Italia con gravissimi problemi economici e politici che saranno la base per l'ascesa del fascismo. È in questi anni che Pininfarina si reca negli Stati Uniti, dove conosce Ford e capisce come il futuro passi attraverso la diffusione dell'automobile, al punto che immagina, una volta tornato in Italia, di realizzare una sua azienda autonoma. Anche Bertone progredisce nella sua attività e comincia a costruire intere carrozzerie collaborando con la SPA e la Lancia. Ma sono auto ancora molto costose e rivolte a un pubblico d'élite. Ne parlano il giornalista Michele Marciano e Vittorio Marchis del Politecnico di Torino. Potremmo dire che il 70% della produzione è affidata ai carrozzieri per quanto riguarda stile, linea, forme, colori e via dicendo. Abbiamo dei prodotti di bellissima fattura, macchine diventate famose, leggende dell'automobile, dove addirittura entra l'artigianato più raffinato. L'oggetto autovettura si diffonde sempre di più, ci sono più clienti e ci sono anche clienti che hanno bisogno di potersi distinguere dagli altri. C'è un altro fenomeno che secondo me è molto importante, è quello dell'innovazione della forma. Citroën negli anni 20 comincia a capire che l'automobile può anche colorarsi. Sono nate nuove vernici alla nitro che permettono quindi una maggiore facilità di deposito del pigmento sulla carrozzeria e vernici che possono essere colorate. Le automobili cambiano colore, non sono più solo nere, come era accaduto fino alla Prima Guerra Mondiale, ma diventano più vivaci. Anche questo aiuta i carrozzieri perché è un incentivo alla moda, è un incentivo a cambiare. Battista Farina era un giovane self-made man che aveva avuto l'occasione di iniziare la sua attività in proprio e per questa attività entrava in contatto con i potenti dell'epoca, con i politici, con i divi del cinema, con i grandi industriali, i quali si facevano carrozzare le vetture da lui e che avevano con lui un rapporto diretto, perché all'epoca le vetture venivano proprio fatte ad persona. All'inizio degli anni 30 la Bertone aveva già assunto una sua dimensione importante, non solo per la produzione di carrozzerie di vetture, che per la verità era sempre abbastanza limitata, visto la potenzialità del mercato, ma anche per la produzione di carrozzerie d'autocarro, di autobus e di veicoli di servizio. E la voglia di possedere un'automobile comincia a diventare generalizzata. È il 1936 quando questo desiderio diventa un fenomeno produttivo. Il primo tentativo di una vettura per tutti, più nelle intenzioni che nella realtà, visto che la guerra era alle porte, sarebbe però stata nel 1936 una macchina piccolissima e dal nome curioso. Il grande successo della Balilla stava a dimostrare che era necessario dare agli italiani l'automobile. Insomma, la gente desiderava l'automobile e per accontentarla era indispensabile che esistesse un'automobile a basso prezzo, evidentemente. Per questo il senatore Nelli ci chiese di fare un'automobile che costasse 5.000 lire. In definitiva poi costò di più di 5.000 lire, venne a costare quasi 9.000 lire. Feci una quantità di schizzi e di proposte di soluzioni meccaniche, tutte molto semplici. E scegliemmo con mia soddisfazione la soluzione col motore di sbalzo, cioè davanti all'asse delle ruote anteriori. La vettura era corta e quindi bisognava dare dello spazio all'interno. Aver messo il motore di sbalzo rispetto alla ruota anteriore ha permesso di ottenere questa abitabilità. Bisognerà aspettare la fine della Seconda Guerra Mondiale, il periodo della ricostruzione, perché l'automobile possa ridiventare un oggetto del desiderio. Riprendono le corse, i rally e sarà il felice rapporto tra carrozzieri e costruttori di auto sportive a segnare la storia di questa evoluzione. Ma la strada per il riconoscimento sarà ancora lunga, anche se alla fine porterà Pininfarina e Bertone al grande successo. Nel 1946 gli italiani non vengono accolti al Salone di Parigi come nazione sconfitta. Pininfarina non si perde d'animo, prende due automobili, un Alfa Romeo e una Lancia, guida fino a Parigi e si parcheggia davanti al Gran Palais dove si teneva il Salone. Chiunque si sarebbe arreso, chiunque ma non mio padre. Mio padre dice non siamo, e noi andiamo lo stesso. Prendiamo due macchine, una te e una io. Fu un viaggio difficile perché io andavo sempre troppo forte o troppo piano, non lo accontentavo mai, ma comunque facevo questo viaggio di conserva, è lungo, Torino-Parigi. Arrivamo là con le macchine intatte e tutte le mattine ci alzavamo molto presto, andavamo fuori del salone prima delle 6 del mattino, mettevamo le macchine, nessuno ci disturbava perché tutti dormivano a quell'ora, e stavamo fino a quando non ci cacciavano via. L'attenzione che suscitammo con quella cosa, con quell'iniziativa, fu forse maggiore di quello che avrebbe suscitato la nostra partecipazione all'interno del Salone. Ne parlavano tutti, ne parlavano anche i giornali. Mi ricordo che il Figaro disse «Ce diable de Pininfarina», questo diavolo di Pininfarina. Dopo la guerra certamente c'è un periodo di incertezza e la ricostruzione influenza anche molto lo sviluppo dei carrozzieri. Qualche sprazzo si è già visto, c'è stato con gli esperimenti della Cisitalia e di altre autovetture prototipali, ma saranno poi gli anni 50 che per la prima volta convincono i carrozzieri che è necessario associarsi all'ingegneria. Cioè il carrozziere non è più soltanto l'artigiano che veste, che magari impone dei vincoli al costruttore di autoveicoli, ma capisce che deve produrre un pezzo dell'automobile, non soltanto vestire l'automobile. A un certo punto nasce questa esigenza, cioè si capisce l'importanza dell'aerodinamicità e ovviamente l'ingegneria si mette a disposizione. Ovviamente anche l'aerodinamicità va vestita e i carrozzieri invece erano maestri nel segnare lo stile, lo sviluppo di questo progresso. Il Salone era veramente un momento storico della vita dell'azienda, ogni anno. Lo aspettavamo, veniva, ci preparavamo, era un momento molto importante della nostra vita sociale. I saloni erano una specie di zona franca dove si potevano incontrare, comparare i prodotti, conoscersi e stringere alleanze o lavori tutti gli operatori dell'automobile europea. E lì i designer italiani hanno iniziato a farsi conoscere e a stringere rapporti con costruttori stranieri per i quali poi hanno disegnato tante automobili francesi, inglesi e tedeschi. Ed era anche il posto dove il pubblico poteva veramente vedere le automobili, perché all'epoca non c'erano televisioni, giornali o concessionari a tutti gli angoli della strada che gliele mettessero sotto il naso in continuazione. Ma l'incontro più importante della sua vita, Battista Farina lo fa lontano dai riflettori, in un'osteria a metà strada fra Torino e Maranello. Da quel pranzo in provincia nascerà un matrimonio da favola. Nell'ottobre del 52 viene alla luce la prima Ferrari disegnata a Torino. Seguiranno 54 anni di lavoro quasi in esclusiva. tanto era stato difficile prepararlo, tanto il momento che si incontrarono ci fu una simpatia immediata, reciproca, un'intesa, e io non ebbi più niente da fare. Mi ero preparato tutto un lavoro, diciamo, di unione, di sensibilizzazione. Niente, non feci niente. Una volta incontrati e stretti la mano, i due grandi si capirono, si incontrarono, si entusiasmarono l'uno dell'altro e tutto filò liscio. A Lamborghini ha rappresentato per Nuccio quello che lui non aveva fatto per Ferrari, infatti, perché c'era un'etica professionale. Ferrari era un predominio di Pininfarina, Bertone non si sarebbe mai azzardato. È venuto questo signore, non tanto alto, io lo ricordo perfettamente, che aveva sotto braccio un fascicolo e ha detto: "Mo lei è Nuccio Bertone?" E lui dice: "Sì, io sono Lamborghini, per cui lei farebbe un vestito sopra questo telaio che noi già abbiamo." Le mie intenzioni sono quelle di creare una vettura gran turismo silenziosa, confortevole per clienti particolari e per clienti, diciamo così, internazionali. Dalla metà degli anni 50 cambia tutto, le vecchie fabbriche non bastano più. È necessario immaginare produzione industriale di massa. In quegli anni il mercato assorbe 40.000 Giuliette Sprint Bertone, 27.000 Spider Pininfarina e 4.000 Lancia Aurelia e centinaia di Ferrari. È un successo internazionale indiscusso che porta negli anni 60 anche nuovi carrozzieri ad affacciarsi al mercato. Il mondo dell'auto era torinese e torinese era anche la carrozzeria, ma c'erano due eccezioni importanti, la Touring e la Zagato, due carrozzieri milanesi fuori dalle righe. La Touring era una carrozzeria d'alto livello, che però faceva anche molta sperimentazione e infatti muterà velocemente il suo nome da Touring in Touring Superleggera perché adotterà un sistema di costruzione delle carrozzerie innovativo. Viene introdotto soprattutto per le auto da corsa l'alluminio, si lavora battendolo su un pezzo di legno e dando forma alla vettura. Molto veloce, molto pratico, molto resistente, andava bene per le corse, Zagato è il miglior battilastra che c'è sulla zona, riesce a fare delle macchine velocissime perché leggerissime, oltre che molto aerodinamiche perché lui veniva da un'esperienza in questo campo. I più importanti sono Vignale, Viotti, Frua, Boano e poi ci sono anche, oltre ai piccoli atelier, ci sono anche i freelance, quelli che lavorano per case in tutto il mondo. Il più importante secondo me è stato Michelotti, che ha fatto delle bellissime cose per Triumph, BMW, per Renault, ha disegnato l'Alpine e poi un altro personaggio interessante e importante per la storia dell'auto che è il conte Revelli di Beaumont. Da tutto questo fermento però nasce un personaggio fuori dalla mischia che è Giorgetto Giugiaro. Io arrivo da una famiglia di pittori e decoratori, quindi è logico che incominci a vedere pennelli, colore, matite, disegni, Michelangelo, tutto quello che è la storia pittorica italiana e non. E nello stesso tempo mio padre, visto la mia facilità di essere ben inserito in questo mondo, pur essendo giovanissimo, mi obbliga a fare un corso di disegno tecnico. Dice: non c'è solo disegno a due dimensioni, c'è anche quella a tre. Quindi matematica, prove, tutto quello che è una disciplina molto ferrea. Il professore che mi dava tutte quelle esperienze, che mi trasmetteva le esperienze, era lo zio dell'ingegnere Giacosa, quindi ci vuole anche un po' di fortuna, perché mi consigliò di fare per questa mostra di fine anno qualche soggetto che c'entrasse l'automobile. Ecco che io potei entrare in Fiat grazie a Giacosa con questa esperienza di essere conoscitore delle basi di disegno tecnico, ma anche questa spinta edonistica della creatività. Poi di lì, dopo 5 anni di conoscenza dell'automobile, passai da Bertone, dove io in effetti iniziai a vedere realizzato le proprie idee. Dopo Bertone la Ghia, quindi più maturo, con più responsabilità. Quando ha fatto esperienza in Bertone, Giugiaro cresce nel sentirsi sicuro e sogna di mettere in piedi un'attività in proprio, confortato anche dall'incontro con un grande personaggio, che è un tecnologo che ha lavorato in Fiat e anche con Bertone, che è Aldo Mantovani. Proprio l'amicizia con Aldo Mantovani, questo sodalizio, crea la formula dell'attività che Giugiaro vuole intraprendere. Offrire come studio indipendente sia il design che lo sviluppo. Siamo partiti per progettare, non per produrre. Quindi abbiamo scelto una strada che, da un punto di vista finanziario, era possibile, un servizio di stile, ingegnerizzazione insieme a Mantovani, che ci ha permesso di arrivare fin dove siamo arrivati. Negli anni 70 la mitologia dell'auto esclusiva si esaurisce, lasciando il posto alla produzione di massa. E allora questi maestri del design allargano il loro sguardo verso oggetti di consumo diversi, fino ad arrivare a disegnare anche un nuovo tipo di pasta, come è capitato a Giugiaro. Non posso dire che ci sia una linea che percorre gli oggetti da lui disegnati, che sono così vasti. C'è una professionalità nell'applicare la qualità dell'oggetto nell'uso, tradotta fondamentalmente in pulizia di forme e in eleganza. Fare un maccherone, come abbiamo fatto, queste marille così chiamate, era un'esperienza nuova, anche se scandalosa per i tecnici, per gli ingegneri, perché conosci un altro mondo e quindi quel poco che tu riesci a percepire di un oggetto così semplice, una penna, un orologio, ti accresce la tua esperienza. Ma la passione per le automobili non si è esaurita, anche se ha cambiato la sua natura e la sua capacità di proposta. Quella che era una promessa di futuro e libertà, oggi deve confrontarsi con un'altra sfida, il problema ambientale e sociale. Ed è ancora da loro, da quei maestri della forma e dello spazio, che ci aspettiamo risposte sostenibili. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.